ma vabbè, io ho la mia costituzione, anche quando non ero diabetico sono stato sempre grosso, non grasso ma grosso come corporatura sempre. Io dovrei fare palestra, quanto mi ha detto il dottore. Il dottore, quando sono andato a fare la visita per il femore, mi ha detto deve fare palestra, deve ingrossare i glutei di modo che li rinforzi bene. Quindi sollevamento con le gambe. Sì, vabbè, certo. Vabbè, mamma, sono si la mossa, ui. Ma non ci vuole nulla per rinforzare i glutei, basta che ti metti il coricato con i gomiti nel letto e i gomiti e ti tiri su con i gomiti, ti tiri su col bacino, dai. Questo ho fatto vedere alla fisioterapista in ospedale, non è che lo stia dicendo io. Hai completo? Sì, stavo mandando un messaggio, sì. Non vi vedo molto bimbanti questo periodo, cosa è successo? Cosa c'è che non va? Sì, già io ho un po' di bimbamenti, poi qualche lavoretto da consegnare, capito? E poi dai, uno non sta bene, anche mamma non sta bene, stamattina non è stata bene, ma è addormentata. È un casino già, ormai dopo i pensamenti non ti viene manco voglia di parlare, capito? Già lo so, già lo so. Io non pensare a niente, dai. Stanotte ho sognato specchi, specchi e specchi, chissà cosa vuol dire. No. Mi sono addormentato, ho sognato che è venuta mia moglie, la mia ex moglie, che voleva lo specchio a tutti i costi, io non ne volevo dare, lui lo voleva perché dice che non ne aveva, gli serviva. E tanto questi sono i miei, cosa avete così. Poi mi sono risvegliato e soprassato, mi sono addormentato e ho risognato di nuovo che è venuta a prendersi lo specchio. Ma dimmi Ducat, cosa può essere? Buh. Lo specchio dice che se si rompe porta sfiga, ma se lo sogni cosa vuol dire? Bubba su internet. Ah, so qua. Luca! Gianni, anche tu! No, io no, perché le cambiate. Luca, scoperto! Gianni! Eia! Ti volevo chiedere, ma se posso chiedertelo, ma tu cosa ne pensi? Che avevo visto questa cosa su un sito, mi interessava molto per gli amatori, però penso che vada bene anche per me, che la pedana del PTT di una cuffia che con cui hai il microfono e puoi parlare, ce l'hai davanti. Ah sì, ho capito, quello che usano gli amatori solitamente, no, può andare bene per tutto penso, no, io non ho mai usato la pedana veramente, però sono dei radioamatori che ce l'hanno e che va bene, che la usano. Perché ho visto che era in sconto questo mese e mi interessava. Lo spinotto come ce la guarda a vedere? Praticamente ha lo spinotto suo, come quello del microfono, e che poi si divide in due. Una parte è la cuffia, in cui c'è il jack della cuffia, e l'altra parte è la pedana PTT. Ma si divide in due, ma fa da 2-1 oppure c'ha 2 attacchi? Mi aspetta che te la mando la foto. Vabbè, cos'è già? Perché ho segnato lo specchio. Allora, sognare, rispecchiare può indicare ricerca interiore e bisogno di analisi, ma pure un eccessivo concentrarsi su di sé, egocentrismo, narcisismo ed anche autoerotismo. Narcisismo, no. Gianni, mandata. Gianni. Gianni. Avanti, chi mi chiama? Ma non rispondi Gianni. Ciao Giulio, mi hai ascoltato? Sì, stai uscendo. Bene, sta uscendo. Va bene, non è questa mega radio amplificata, però va bene. Ok, va bene, grazie, ciao. Scusa, io sono al telefono, non posso rispondere. Luca, l'hai sentita Giulio? Sì, la portavo lì quando la stavo mangiando. Sì, Giulio, è una radio normale, dai. La classica radio normale, va bene comunque. Hanno indicato per ICOM, Kenwood, eccetera, eccetera, tutti apparecchi radioamatoriali, ma pure esperienziale avuto l'acqua in mezzo. Sì, ma io lo troppo, sì, per quello comunque. Sì, sì, sì, è indicata per il rinnovista, c'è anche scritto sotto, per Kenwood, eccetera, eccetera. Ma infatti mi piace che anche la cuffia, però voglio provarla, perché penso che non si possa neanche regolare già impostato. Cosa devi regolare? Il volume? Sì, tipo il volume del tipo il microfono si regola da tavolo, invece questo la cuffia penso di no. No, quello lì non penso che sia regolabile, si regola dalla apparecchio e basta. E vabbè, meglio così, così non c'è troppa roba da regolare. Comunque mi piacerà anche in sconto. Prenditelo se ti piace. Tu Cristian. Comunque non è il caso mio, lo sai perché? Perché lui dice se uno si specchia, se si sogna di specchiarsi, invece io non mi sono sognato di specchiare, ma mi sono sognato che me lo volevano portare via lo specchio. Ah. Ma anche io ce l'avevo fatto sogni strani, poi me ne dimentico. Non lo so. Me lo sono sognato due volte, mi sono svegliato, poi mi sono riaddormentato e ho risognato la stessa cosa, ma ti immagini? Dai, bianco per me che vado in bagno. Vai, vai, tranquillo, che prendi lui. Sai, compri me quelle patatine e la paprika, le Rospin sono buone. Ma mi ha detto che le Rospin sta diventando un bel carro. Allora, le Rospin di Pedanieta si sposta di fronte a, al bar, dai, diciamo, dove c'è dove facciamo l'olio, dai, sempre il padrone, sempre lui il padrone, no? Le Rospin, quello lì vecchio, lo buttano a terra e lo fanno nuovo. Come mai? Per essere tutti uguali. Andare. E quando non c'è i soldi, uno ci pensa due volte se non c'è i soldi, ma si va di là, li faccia, le ricostruiscono, fanno e io... Vabbè, ma penso che lo paga proprio, come si chiama, lo paga lui, perché lo sponsor non te lo puoi chiamare. Prego. Quello lì è suo, si paga tutto lui, avanti il break. Buonasera a tutti quanti i componenti del canale di questa parte. Oh Leoncino, buonasera, viene più lui da questa parte. E allora Leoncino, come mai tanto tempo senza sentirti? Come mai? Come mai? Ero senza apparato. A riguardo quella cosa là, già. Saremo in due adesso. Andati da una notizia, mentre stasera ero dalla dottoressa nostra, ma è una brutta notizia. E che notizia? Legamenti artistici alla gamba sinistra. Tu? Gamba. Io li ho fatti legamenti e menisco. E adesso ultimamente ho fatto il femore, dai, grazie a Dio mi hanno operato, sto bene adesso, non ho più stampelle, non ho più dolori, niente. Adesso vediamo, domani, lunedì, vado dallo specialista di sua massa, vediamo cosa mi dice lui. Ancora non si sa, dipende da quello che mi dice lui e poi metterà in vista per la situazione, vediamo un po', vediamo di no. Ma da che cosa, Giuseppe, questi legamenti? Da non credo che io ho subito dal 2001. Quello che hai avuto a Coso, a Santosso? Gamba. E non ci sono avvisati che c'avevi i legamenti, ma tu rotti del tutto so. Mi sta dando una bella notizia. Lì, questa cosa qua, ecco. Vabbè Giuseppe, ma non è una cosa molto invasiva l'operazione, è una cosa, io ho fatto l'operazione e amminisco legamenti a Barghero, l'ho fatta e praticamente mi ha operato il dottor Punda, io me l'avevo fatti cadendo dal furgone. E niente, ti fanno un buchettino e poi lavorano da questo buchettino, c'è una specie di telecamerina, loro guardano dal monitor e lavorano così, non lo fanno più tagli grossi o roba del genere, almeno che sia una cosa diversa. Buono lo fare, ma poi fatto. Ma a colpi sta andando Leoncino? Ma ha tirato il... Però... Sì. Vada e fatti il colloquio, soprattutto. No, ma Marino mi sa che adesso la sala operatoria è chiusa, perché dovevano fare anche a me il femore, poi mi hanno chiamato da Sassari e prima sono andato a Sassari, l'hanno chiuso, non so se l'hanno riaperta adesso, stavano facendo solo la luce vago, così, roba da poco, là. Roba più grossa hanno chiuso la sala operatoria, avanti, tu mi chiami sempre non tu magnenti, ciao Giuseppe. No, la cosa è diversa, tu sei sempre magnenti, e come ti vuoi ci abbatti che non sei magnenti. Guarda già, ho fatto una magna e pongo a fa. E tu sono i cosi, poco fa sono montato il telefono di Antonio, sti pezzi che mi servono, insomma io lo sto sistemando. A me è pronto, quando arriva al petto non faccio altro che piazzare tutto quello che devo piazzare. Vediamo un po' se mi ascolta Lemoncino. Giuseppe, senti? Piazza, già sto qua, sono in accolto, dai. Sono un attimo attaccato un attimo al cellulare, dai. Mi hanno mandato un messaggio. Che apparato stai usando, Giuseppe? Quello di Alessio? Papà. Si sente al bip, vieni, vieni. ma controllati qualcosa lì, Giuseppe, il segnale tuo poi viene. C'è qualche problema sicuramente all'antenna, controlla qualcosa, al vento magari, non sta facendo contatto bene. Perché mi fa da 9 a 3, 9 a 3, 9 a 3. Cosa sta succedendo? Ah, guarda, sto usando la Turbo 2001, non sto usando la centrale, capito? Ah, cappa. Riccardino, è entrato Leoncino, saluta. Ciao Leoncino, ben ascoltato. Ciao Riccardino, buonasera. Cosa? Ha detto buonasera. Avevo capito altro, avevo capito bene. Mettiti amplifo. Oh, non ho il timpano spento io. Avanti. Ah, vabbè, Luca sta mangiando. Allora, Giuseppe, cosa ci racconti? Nulla è fatto cosa, sto aspettando che... Se si sblocchi qualcosa giù all'ufficio provocamento per la fattoria del lavoro, speriamo che l'hanno detto per il compito, speriamo che sia positivo, almeno. Vabbè, almeno qualche cosa, disoccupate non la stai prendendo. Negativo, l'ho la stagione, ma so che già sto rifilando quella cosa e dunque non posso fare niente. E tu guarda quello che conviene, quello che conviene di più, quanto ti danno di più, dove ti danno di più, prendi quello che ti danno di più. Non aspetta a me dirtelo, già usare. Già, io un mese di galera, no, non me lo dico più. Se mi dopo sono prendere quinto, faccio la rinuncia di questa cosa e mi tengo quello quinto, hai capito? Non è il rischio della galera, che devi durare tutti i dati che ti hanno dato. E devi ritornare tutti i soldi. Se uno fa qualche manfrida deve ritornare i soldi. Hai capito? Come hanno fatto con me dall'Inps. E io prendevo la pensione più lo stipendio, ma loro lo sapevano che io stavo lavorando e me li davano lo stesso. Poi mi hanno preso 940 euro per 4 mesi e un mese tutto lo stipendio intero. Per usi che come si dice che percepisce così tu sei in alta ma non che ti assumono, va bene, ma poi se ti trovano nel nero si cassa niente anche quanto ti hanno dato 10.000 euro, 10.000 euro devi durare. Lo so, tu pensa che quello che c'è qua sotto casa gli hanno dato la liquidazione tutto quanto e gli hanno scritto che gli hanno dato di più, deve tornare 20.000 euro, dice che gli hanno dato soldi in più. E lui dice, ma io non glielo ho chiesto, me li hanno dati loro, che cavolo, adesso io devo stare a morire di fame io per darli a loro, ma stiamo scherzando, è andato là e se li ha fatti rateizzare, perché non è possibile darli tutti insieme. Beh, sono un po' di dinare. 20.000 euro, ma non solo lui, tutti quanti i colleghi che hanno praticamente la ditta chiusa, li hanno licenziati, gli hanno dato la liquidazione, non so cosa sia, come li hanno pagati, e gli hanno dato soldi in più. Superava il reddito che dovevano prendere, il normale reddito, lo superavano, quindi quello che hanno superato devono restituire. Me la fregatura, è un casino. Sì, ma se loro sanno che tu non li puoi prendere, perché te li danno per poi riprenderti e metterti nei casini? Lui e tuo fratello ha aperto a Giuseppe. Stanno sempre lì, aiutarlo. E se c'è il giro già va bene, se c'è il giro, non lo so come sia quella zona, ma penso che Nico ne abbia di giro. Gianni Silvio, che c'ha qualche contatto importante, però rischia di bruciare tutto. Ripeti Marco. Giuseppe, mi copi. Avanti. Giuseppe, tu mentre parli c'hai uno scatto continuo, cioè passa da Santiago 6 a 9, da 6 a 9 c'hai un falso contatto importante, insomma è notevole la differenza di segnale. Attenzione a non bruciare tutto però me. Lo vedi lui? Eia, magari con Gianni siete vicini, si nota meno, però da me e Luca si nota di più. È molto più evidente. Va bene, dai, continuate. Esatto, a me mi arriva fondo scala, però ci sono delle scariche, io sento delle scariche quando parlo. Ehi, a me passa. Cacchio, allora di strumento mi passa da 9 a 2 di strumento, però il mio Santiago 2 corrisponde al Santiago 6 reale praticamente, quindi il segnale da 9 a 6 mi passa in continuazione, tac tac, proprio come in falso contatto. 9 e 10 qua arrivo. Qui prendi Natalina. Ehi K, ero al telefono. Toglierai a Marco cosa mi vogliono fare quei bastardi. No, non glielo detto. Ma cos'altro è successo? Lunedì c'ha il tecnico e mi toglie le antenne TV da sopra il palo di quello lì. Adesso mi vogliono rendere la vita difficile. Adesso mi compro la parabola e piazzo la parabola io. Sul tetto non impiazzo più antenna TV e li frego lo stesso. Cioè, cosa vogliono fare? Toglierti l'antenna TV dal palo di quello? Non credo che sia una cosa che si può fare. Qua puzzolente la cosa. Qua bisogna cominciare... Non te lo dico qua. Il senso era quello. Capito, Natali? Cioè, l'antenna... come spiegarlo? Il diritto di installazione antenna vale anche comunque per l'antenna TV. Non è che chiamano un tecnico e ti buttano giù l'antenna tua, stiamo scherzando. Quello in casa sua c'ha ragione. Non è sul mio tetto l'antenna, è sul tetto di loro. Non c'entra niente, diritto all'antenna. Lo puoi montare anche sul tetto di un'altra palazzina. Ciao Fabri! Ciao, sto lavorando, già vi sto ascoltando. Allora non le possono buttare giù e cosa posso fare io Fabri? Chiamare i carabinieri se sale il tecnico? Certo, devi avvertire e ti devono lasciare passare. Se l'antenna, il tetto, sei obbligato a far mettere l'antenna. Puoi pagare il disturbo, tutto quello che vuoi. Ovviamente il palo devi usare il tuo, non è che usi il palo di un altro. Però l'antenna non ti possono vietare di piazzarla. E allora è fregato quello, perché io se sono il tecnico mica ti tocchiamo dei carabinieri, ma se mi tocchi l'antenna sono affari tu. Sì, allora fai una cosa, devi metterti un tuo palo, non è che puoi usare il palo di un altro, perché se il palo di un altro, cioè, come ti permetti? Però il diritto all'antenna non lo puoi vietare a nessuno, quindi l'antenna TV, Vai, tu fai due buchi e metti il tuo palo. Ma è il fatto che a me quell'antenna me l'ha piazzata un inquilino di loro che se n'è andato. Non ci sono salito neanche io e gli ho dato le antenne pronte a piazzare con l'amplificatore. E infatti la mia non la disturbo perché è nuova, è quella che c'è sotto che fradicia. Allora è un palo comune, ma attacchi lì, che ci terranno molto la montata quella signora lì che è andata via. Ormai è lì e loro se non la toccano li denunci, se la toccano li denunci, tu dici così, non la tocca li denunci. Vai all'ufficio dove ti hanno fatto la multa e gli spieghi cosa sta succedendo e loro ti danno, ti dicono esattamente come ti devi comportare. Si chiama diritto all'antenna, cercalo su in rete e vedi perfettamente. Capito? Non ti può vietare nessuno di montare le antenne, soprattutto in un tetto che non è calpestabile, può passare anche in un terrazzo per capire, ovviamente parlando il disturbo senza limitare l'accesso, tante cose, immaginati su un tetto non è un problema, vai, dico dove la devi installare lì, siccome era già preesistente, c'era già quell'antenna, quindi ti erano già autorizzate, cioè, c'è tutta una storia, non è semplice, però non te la possono far togliere secondo me, vai all'ufficio dove ti hanno fatto la multa, gli spieghi che dal giorno sono rompiti, vogliono far togliere l'antenna, tu non hai posto per mettere l'antenna perché sei in basso o in alto e te la vogliono far togliere, come ti devi comportare e vedi un po' cosa ti dicono. Infatti, ascolta, domani non lavorano loro, no? No, assolutamente, il sabato non credo proprio, però potrebbe essere, io chissà che sono in chiuso l'ufficio, credo, chiamo, ma non credo che sia aperto il sabato. Cazzo, vabbè, ma io lunedì me la vuole fare togliere, io come vedo il tecnico lui, se tu mi tocchi l'antenna ti sto denunciando, chiama i carabinieri immediatamente. Sì, tu fai così, gli dici, beh, gli dici, ascolti, c'è il diritto all'antenna, l'antenna è lì e lei non la tocca, se voi la smontate io chiamo i carabinieri e vi denuncio, lo sto dicendo, cioè i carabinieri stanno smontando l'antenna, diritto all'antenna, però prima di parlare così, vai un attimino in rete, ti scarichi qualcosa, diritto all'antenna, installazione sul tetto del vicino, poi trovi tanto, non sentite di cassazione, scarichi qualcosa, quando viene, stampi, fugli alla mano, guardi, ci sono questa sentenza numero 8 del giorno, c'è questa sentenza qua che riprende qua, eccetera, tutte le putte puttane, ah, devi cercare un po', dai, comunque c'è tutto, gli dici, guarda, questa è la situazione, io so che se voi la smontate, io vi denuncio, punto. E poi chiami i carabinieri, vedi un po' tu, non lo so, così è... devi studiartela la cosa, devi leggere, vedere un attimino, scaricare qualche sentenza, avere un po' di carta in mano stampata, quando vengo dico guarda, questo dice così, questa è una sentenza di cassazione, questo l'articolo parla così, quest'altro così, 4-5 no, molto, giusto quello che è favorevole a te, e poi vedi come comportarti, comunque non te la possono far staccare, che io so. Ecco, mi sta dicendo mia moglie che all'amica gliel'hanno fatta togliere, gli ha mandato la lettera dell'avvocato. Allora, ti mando, è perché in casa sua, anche se preesistente, veniva fatta a Gavà, Fabri. Perché lui dice, io non gli ho dato... Allora, dice che quell'inquilino che se n'è andato non aveva voce in capitolo, gli ha detto a mia moglie, il padrone di casa, quello che mi vuol far togliere l'antenna, che lunedì fa salire il tecnico e me la fa togliere. E tu li diffidi, che devi informare, perché non è così come sta dicendo, perché abbia scritto l'avvocato non vuol dire niente, anche a me ha scritto l'avvocato, era quella di vicino che mi diceva di smontare le antenne, che disturbavo, che qui, che là, già ne ha scritto poche di cose, sai cosa ho fatto io? Nemmeno gli ho risposto, volevo rispondergli, poi nemmeno ho risposto, vabbè, e chi se ne frega, anche quello del vicino che stavamo chiudendomi un garage mi ha scritto, che mi aveva scritto l'avvocato, e mi ha chiamato l'avvocato, mi ha detto, bene, quindi cosa vuole? Sì, l'ho trattato anche male, poverino, mi ha detto, cosa vuole? Sì, e quindi... Sì, c'ho tutti i documenti fatti, io sono all'interno della mia... ma la signora non entra se lei chiude il suo posto auto, non me ne frega niente se non entra. Queste sono sulla mia cosa, posso chiudere, c'è tutto i miei quadri, superi questo, eccetera, questo io posso chiudere senza nessun problemi. Quindi gli ha fatto buttare 100 euro lei sicuramente, o 150 euro per la lettera, complimenti, comunque io adesso chiudo e poi le vai davanti, non si preoccupi, uno. E questo è lo stesso qua vicino, mi aveva fatto scrivere, non è perché ti scrivi l'avvocato, devi fare. Poi non lo so, voglio dire, informati. infatti vai ad un legale anche tu, gli dici c'è questo problema, e loro ti dicono anche lui come si deve comportare, il legale è serio però, oppure leggi tu, non sei stupido, vai in rete, leggi un attimino il diritto all'antenna, non lo so, devi leggere, devi vedere, il diritto all'antenna è sacrosanto, punto, a prescindere che sia radiotrasmittente, a prescindere che sia televisione, che sia radio, qualsiasi cosa. Natali, riprendi. No, sto cercando in rete, diritto all'antenna TV ho messo, vediamo cosa esce. Leggi, io rimango in ascolto, che sennò sto facendo un lavoro. Dai. Fai, adesso vedo. Apparato. No, quello è fermo, li butta tutto aperto, cacchio, tutto, tutti i pezzi, quando avrò tempo gli rimetto mano, adesso sto facendo un apparecchio, sto cercando di capire cosa è successo. Kappa, dai. Quello lì è un passatempo, là. E tocca a tutti, vediamo, una parte è fatta, ora ce n'è da lavorare. Oh, yeah. Vabbè. Oltre al lavoro anche questa passione ti impegna. Dai. Vabbè, dai, io proseguo, se no non ci... Dai, a dopo. Faccio cosa c'è Giuseppe? Vai, via, ciao Fabri. Ciao Giuseppe, tutto a scarica, sì, fatti controllare il piede, qualche cosa, magari è entrata acqua, buh. Ehi Natalì, comunque non lasciare correre, perché lì già ti bussavano il campanello ogni volta che parlavi, ti pigliavano a voci, lì c'era già lo stalking. E hai lasciato correre una volta, questa volta non devi lasciar correre, perché tanto abbiamo capito che lì quieto vivere non esiste con quel tipo di gente lì. Non c'è né quieto vivere lì, Natalì. Li vogliono rendere la vita difficile, non hai capito, perché hanno cominciato col baracchino, hanno visto che non avevano strade da prendere, allora ne hanno preso un'altra di strada per rompere le scarpe. Ma dico, se prendevano disturbi, basta rifarci l'antenna TV propria. No, lì è proprio... Vabbè, ne abbiamo già parlato, non mi voglio dilungare. Ciao Giuseppe, sentiamo, ciao. Comunque anche a te già, mi ricordo all'epoca, il volantinaggio, i messaggi criptici, quello che sei impiccato me. Ma io già l'ho fatto impiccare poi alla fine, l'ho mandato in una mara e l'ha capita che non valeva nulla. Ho trovato quello proprio su proprietà altrui, adesso mi sta un po' tutto. Vedi che c'è scritto, vedi, cosa ti dice. Fabrizio. Ciao, dimmi tutto. Guarda come è scritto adesso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, ma la radio è bassa. Va bene, ma adesso usano una turbo 2001, non so usano la centrale. Ho capito. Vabbè, dai, rimango in ascolto. Vabbè, com'è adesso Gianni? Sempre a carico? No, adesso scarica e non è più. Era là la questione dell'antenna, hai capito? Se ce n'è uscita da una cosa, dai, devo piazzare. Va bene, dai. Di nuovo, dai, corretto per me, dai. Rimango in ascolto. Va bene, siamo qui se vuoi entrare. Io adesso mi alzo e faccio merenda. Avanti, Black. Oh, yeah. Prima fa un break e poi non entra, non ci complisce. Luca, a te cosa era successo invece anni addietro? Ti avevano tagliato il cavo più volte dell'antenna. Sì, tre volte, sì. Vabbè, cosa vuoi fare? Troppo. No, grazie a Dio sono tutto a posto. Beh, tagliare questo cavo che c'ho adesso, vabbè, non è difficile, ma è un po' più in salita, Sì, ti mettono il chiodo, uno spillo e ti fanno andare tutto in corso. Ma è grosso questo cavo già, è tutto una palla, Cos'è? 213 quello? Sì, doppia calza. È tosto, sì. Domanda, ogni quanto tempo, ogni quanti anni consigliate di cambiare il cavo? Per via del freddo, del sole pieno, no, caldo, freddo, di tutte le stagioni. Ogni quanti anni? 10, 15, 5, 20? A me ne sono passati 15 di anni e è sempre buono. L'ho dato a Luca, mi te lo può dire com'era il cavo che ho tolto io, ed era l'RG58. Io c'ho il 213, vediamo. Comunque se vedi cali di prestazioni, al limite si cambia, ok. Questo c'è da 6 anni solo. Sì, 6 anni, come l'antenna. L'antenna con lo schifo di Energy. Ma 213 doppia calza hai. Aspetta, dopo guardo lo spezzone, non lo so, Lu, non mi ricordo, l'avevo preso da o Media Globe, forse Media Globe o FLQ Elettronica, non me lo ricordo. 213U credo che ci sia scritto, credo, devo controllare uno spezzone. Guarda, se c'è la cazza argentata, dovrebbe essere quello con la doppia calza. Il mio c'ha la centrale, la doppia calza argentata. E adesso non aggiunga. Dai, è chiuso nello stanzino, seppellito sotto tonnellate di roba. Va bene. Boh, un natalino non ho preso in do. Poi l'ultima risorsa, Natalì. Già la sai, no? Già capito. Già dato io il consiglio. No. No, perché ti portano all'esasperazione. Comunque anche qua il terrazzo di proprietà, no? Aveva fatto osservazione di che questo cavo passava nell'angolino, dice non c'è servitù di proprietà, ma la servitù di passaggio, lui si è detto no, no, c'è la servitù di passaggio, eh? A parte che l'antenna mia è sul gabbiotto che è condominiale, al centro del terrazzo. Si stava lamentando per questo cavo che passava nell'angolino estremo, no, proprio, manco fosse a mezza altezza, no, in diagonale, in mezzo cammino, allucinante sono. Ma se io ho dovuto mettere un tirante attaccato alla zanca dell'antenna TV perché non mi hanno fatto mettere un tassello, perché dice che la proprietà era sua, quella lì, e non dovevo mettere sul tassello, e lui non le rompeva le scatole per niente. Guarda, noi il terrazzo che era di nonno, quando ci hanno chiesto di piazzare antenne TV o parabole, non abbiamo mai fatto storie. Ho detto prego, le chiavi, basta, detto, pulire in modo da non lasciare roba a terra, pezzi di cavo che poi finiscono nello scarico del terrazzo. Non eravamo così, però per i baracchini fanno belle storie, sì. Vabbè, cioè ti dico. Io ripeto ancora una volta, ho tentato in tutti i modi di fare TV alle mie due antenne TV, con lineare, con amplificato, senza il filtro, via niente. Ho controllato fino al canale 56, non c'è modo di fare TV alla mia TV, alla mia antenne TV. Qualcosa vorrà dire, no? Ma loro non ne frega nulla, ti dico, sino adesso non va bene, da quando hai messo il baracchino mi stai disturbando, capito che discorso fanno? Ma da lì non escono, capito? Ma tu pensa che Natalino si era offerto di cambiargli a sue spese l'antenna TV e hanno rifiutato, gli voleva fare cambiare antenna, miscelatore, cavo, hanno rifiutato, quella è cattiveria. Io gli ho detto già che gente ci abita lì, no? Ma infatti lì da lì per scappare, io me ne sarei scappato, ma non adesso, no? Dall'inizio. Io mi ho scaricato questa roba e diciamo i carabinieri, anche se domani vado, mi piazzo la parabola e il coso, così me la vedo lo stesso la TV senza quell'antenna, però se lui mi tocca l'antenna lo sto denunciando, forse avvicinare un tecnico. No, ma il tecnico è il tramite, cioè casomai la fai la causa, cioè denunci chi ha chiamato il tecnico, non il tecnico. Il tecnico è un tramite. Natalì, io gli dico, se tu mi tocchi l'antenna ti sto chiamando i carabinieri, e poi quando vengono i carabinieri gli schiaffo in faccia il diritto all'antenna, con tanto di codice e tutto, anche su roba altrui la puoi piazzare, capito? E no, che ti guarda cosa c'è scritto a me. Il diritto di antenna consiste nella possibilità di installare la propria antenna TV e tutti gli accessori connessi alla sua proprietà altrui. Praticamente è una vostra piazza poi già preesistente lì, che non sono salito neanche io, me l'ha piazzata un inquilino che era lì. Sì, poi sai, le osservazioni gratuite dicevano che l'antenna era lunga, questa antenna lunga, e io gli stavo per chiedere se doveva atterrare sulla terrazza con l'elicottero, se per caso le palle dell'elicottero toccavano l'antenna. a me è venuto una, dimmi che ondulava l'antenna, l'avete fatta apposta per quello, qual è il problema? Io subito ho sgrubato di quarta, qual è il problema? Dimmi, se no lo risolviamo subito. E lui mi ha detto, anche che mi disturba, mi fa le righe, come fa a farti le righe, se adesso righe non ne fanno più? E ha detto, no, vabbè, allora ciao, ciao, e se ne è andato, curaco del mezzo alle gambe. Casco, non solo ti dico una cosa Gianni, sei il fotografo, il tecnico, che lui si crede di essere tecnico, no? Io di ricordo i giaffi rudago zangurone in terra con due schiaffi solo, perché li tiro due schiaffi solo e lo capoteggio. Ma lascia Bindi, non ti compromettere, vedrai. Ho sentito tua moglie che diceva, ma lui ha detto, quello che dice lui non conta nulla, è la legge che parla, non fatevi condizionare quello che dice lui, lui può dire quello che vuole, la legge ne dice un'altra di cose. Sì, ma poi infatti se quello che vale è la legge, poi lettere di avvocato, ma cos'è, l'avvocato è salito sul tetto a fare togliere l'antenna a quell'altra persona, voglio vedere, ci ha capito, e va bene, lasciamo stare. Sì, approfittano di chi non conosce le leggi, di chi ha capito, se trovano quello che conosce le leggi, dice in base all'articolo, è ligata a tutti. Poi Natalino ha detto più volte il quieto vivere lì, no? Si evita coso, però per il quieto vivere la sta prendendo nel QSO lui, no, non va bene più, non ce n'è quieto vivere. La notte non ne vede nessuno televisione, perché parlo fino a mezzanotte, tanto per cominciare. Ti presto anche il lineare se vuoi. Ce n'è bisogno, già lì disturbo anche con la moravata, non c'è problema. Capito? Avete parlato in due, c'era anche Gianni, capito? Con la ventola, ci metti la ventola sul linearetto, blocchi col tasso l'MB più 5, puoi andare anche con i carpi, tanto la ventola lo raffredda, te lo lasci ore e ore, così, allucinando. Sì, no, ma prima si metteva nell'ascensore, te lo ricordi, che metteva una cosa, la portante fissa, si sentiva il rumore, metteva una batteria, non so che cosa, adesso non mi ricordo cosa era, e ti risultava la portante fissa, non riuscivi a capire lui. Ehi, gli butto un oscillatore sul tetto, finché non finisce la batteria, il televisore non ne vede niente. Mi ricordo, qualcuno era arrivato con le cose lì per fare capire una cosa che creava molti, vabbè, adesso non mi ricordo come del discorso. E io mi ricordo vagamente lo stesso, era anni fa che l'avevano fatto, l'avevano messo e visto che c'era la lampada dell'ascensore rimane un po' staccata, dentro quell'affare della lampada gliel'avano messo e questo qui non capiva più nulla, non sentiva più a nessuno. Per forza, perché sta oscillando e fa varie frequenze. Gli fa abbattimento zero. Chi? Ah, la cosa era. A lui. Ma perché non lasciano la gente in pace, vivo la lasciano vivere? Non hanno ancora capito che dove finisce la loro di libertà inizia quella di un'altra persona, e che sono circondati da altre persone, devono vivere con gli altri, no, no. Vogliono fare legge loro e buco. Certo, succede se qua, dico, troviamo una soluzione, no? Mi metto a posto l'antenna mia TV, io per esempio questo filtro che lascio inserito, questo che attenua addirittura di 80 dB dai 30 MHz a salire, non sarei tenuto nemmeno a metterlo, io lo metto per eccesso di prudenza, per evitare seccature, capito? Vabbè, tutto parte quello scherzo lì già, ti ricordi, no? Te l'ho fatto sentire. Sicuramente è uno scherzo perché poi è finito tutto da un giorno all'altro. I potenziometri usare. Ehi, perché usi potenziometri tu, abusivo? Siccome sicuramente ha sentito la parola potenziometro, che può essere il volume, il mic gain, no? Ha detto che io usavo i potenziometri e non li potevo usare, ecco, hai detto tutto, no? Chi ci vede è fini male, la teoria mia, chi li bigliacciaffi, io so come a capire, si giro, mamma mia. No, ma magari questo è andato a lamentarsi da chi di dovere, dice guarda che questo usa i potenziometri e non vedo la TV, sai cosa gli hanno detto pure, ti fa sentire. l'hanno fatta apposta, saranno quei ragazzi che stanno lì al bar che ti conoscono, sanno che al bar chi o ti hanno fatto che si abbuffano a due. Tutti quei per il giorno mica non sanno cosa fare. Ehi, la parola giusta ha detto mi Natali. Noi una volta avevamo fatto lo scherzo a questa tipa che si tagliava i baffi con la lametta e si vedevano sempre i peluzzi vicino al naso, no? Non si ritagliava mai. E un giorno l'avevo telefonato con Roberto Siti, abbiamo messo il viva voce, quando siamo pisciati dalle risate, e abbiamo detto, ascolta, ma so che sei andata dall'estetista oggi. Sì, sono andato dall'estetista, perché come parlava io. E te li hai fatti i baffetti che ti crescono, anche vicino alla cosa del naso. E lei ha detto, i baffi ce li ha mio marito sopra e sotto. Allucinante, che te l'avevi pisciati. Ma voi duro. Io con due filtri anti-TY li disturbavo lo stesso, perché uno me l'aveva prestato Marcolino. Adesso non ho messo né filtri né un cazzo, io dico, li sto ammazzando. Occhio. Occhio, che occhio. È la pura verità. Perché c'ha l'antenna marcia, quello è colpa sua. Adesso se lui, dopo aver mandato la denuncia a Cagliari, sta chiamando il tecnico, evidentemente gli hanno detto, guardi, sì, è meglio che vi mettete le antenne nuove perché quel signore è in regola. Se interveniamo noi, poi vi dobbiamo mettere la multa, gli danno. Ecco cosa rinunzi. La parola di tutti così, allora è ma vendetta me ne vuole, mi vuole far togliere le antenne TV mie. Ma poi c'era questo luogo comune, no? Che per far intervenire le scopozze bisognava pagare 600 euro. Ma non credo che sia vero, perché cioè, questi hanno tutti i soldi per chiamarli e non hanno i soldi a mettersi a posto le antenne. Secondo me non si paga, cioè l'intervento è gratuito. È possibile che non si cambiano antenne e hanno tutti questi soldi a chiamare le scoposte due volte, no? Non vi credo, non vi credo. Ma non so quanto sia vero, però questo è un imprenditore, i soldi ce li ha indubbiamente. È il padrone di tutto il palazzo, mi dici. Imprenditore? Ah, vabbè, sì, vabbè, lui può avere i soldi che vuole, cioè. Comunque il tecnico che lo si dice, quella è un'antenna, è la mia proprietà, non la deve toccare. Vabbè, comunque, quante volte abbiamo parlato di queste storie, che ti bussavano in campanello, voci, e tu hai lasciato correre, vedi i risultati, Natali. Vabbè, comunque, calma e gesso, non bisogna allarmarsi troppo. Chi c'è rimasto qua? Io. E doppio room? C'è anche doppio room. Che riprenda doppio room. KK, era il telefonino, anda bene, e allora Marco, tu invece, vabbè, per quella roba lì non hai mai avuto di cose, io ci ho conservato ancora gli articoli del giornale, ce li ho ancora conservati. No, no, a parte quello scherzo, perché si capisce alla fine che era uno scherzo, poi quel signore di fronte, vabbè che non c'è più, aveva dei disturbetti, però era l'antenna sua, poi l'ha cambiata e tutto è sparito. Qui nel condominio solo a un'assemblea hanno detto, ah io vedo male la TV, invece poi non era vero, perché l'hanno detto per così, per far dispetto, cioè, così, tanto per non darti soddisfazione. Invece qua, proprio qua nessuno mi ha detto nulla. Pensa che avevo chiesto all'inquilino dell'ultimo piano, che c'è l'antenna TV attaccata, cioè molto vicina a quella del baracchino, per non dire attaccata. Io quando ho fatto quelle prove ho chiesto, ma in questi giorni avete visto male la TV per caso, no, con una scusa? No, no, tutto perfetto qua, visto, nemmeno lui ne piglia disturbi. Va bene, signori, io vado a farmi il caffè e a mangiarmi il dolce, riprendete voi o dopo a domani. Se non entro, se non rientro, ritenetevi tutti salutati. Ciao. Ehi, Marco, dai, anch'io vado, devo portare giù il cane. Vi faccio da mangiare e poi lo porto giù, dai. Così almeno mi si sta già alzando. Cazzo, capisce quando sto chiudendo, ma te l'immagini. Come mi sente che sto chiudendo si alza. È allucinante, vabbè dai. Poi c'è che non capisco le cani, io non capisco così. Babbo Marco, dai, con correttivo, la carica, quando la fai, Natalino, ripeti. Lo so, capiscono sì. Il mio capisce tutto, tutto. Capisce. Se quando parlo con mia moglie lui si mette a ascoltare a vedere cosa sto dicendo. Tu comprendi, Guraridu. Già capiscono già. Altro che noi. Cosa volevo dire? Beh. Adesso mi sto facendo fare il caffè da mia moglie. Ecco, ti nervosisci di più. E almeno così li prendo a schiaffi bene lunedì. Se viene il padrone mi ti ricudo due bugni a bocca, cazzo, ne ricavo rigasciare con i denti. Cosa giovane? Cazzo, il buon umano mi. A chi sastro, cazzo, a rubizzino di chi sastro, non sa dire amica di mia moglie, dimmi. Ti ricudo due bugni a bocca, cazzo, buraeda a cura a terra. Li posso a cura a terra, mi sto dicendo, cazzo, lunedì faccio casino. Dopo mi arrestino. Io sono incensurato. No, lascia perdere la violenza, figliolo. Ma te ne fanno uscire gli occhi. Buonasera a tutti. Ciao Gianfra. Ciao Gianfra, io stavo chiudendo, dai. Sto andando via. Vi saluto tutti e sto chiudendo, dai. Ciao Gianni, buonasera. Ciao. Il dovere mi richiama. Senta, lì stavo seguendo un po' la cosa. E siccome c'è un impasto di ignoranza da parte di queste persone, secondo me loro sanno benissimo che non lo possono fare, ma stanno cercando proprio di essere colpiti e di essere in qualche modo di avere la scusa per fare una denuncia per aggressione, perché se no non si spiegherebbe. È possibile che esista al mondo, cioè è possibile, è certo che è possibile, che questa gente è talmente ignorante, talmente malafede da fare una cosa del genere. Comunque, tu invece non te la prendere, fregatene, quando il tecnico va vicino dice scusi, ma lei è il tecnico che deve fare quel lavoro, ecco. Allora, se fa quel lavoro, sappia che è denunciato e lo porta in tribunale. Vedi che quello gira se ne scappa, perché di casini, soprattutto chi lavora, non ne vogliono. Capito, Natalia? Però se è un inquilino di lì che si crede di essere tecnico, come mi ha detto lui, quello lì bisogna prendere la schiaffa, perché quello me la stacca lo stesso l'antenna, che gliel'ha detto il padrone di casa di staccarle. Assolutamente no. Allora, dirò di più, che ti diverti di più, Natalie. Allora li avrei lasciata staccare, poi le avrei chiamato la polizia, le avrei fatto prendere la generalità in vista di una querela per danneggiamento anche, e allora guarda, mi sarei divertito, perché per fare quel lavoro, per staccare anche l'antenna, anche per toccare una presa di casa, bisogna essere abilitati, perché la legge dice che tutto deve essere a norma e quindi devi essere abilitato dal punto di vista professionale a fare quei lavori. Lui non può salire e staccare l'antenna degli altri. Già non lo può fare un tecnico, figurati uno che è tecnico non è. E infatti io se li chiamo i carabinieri li causo guai, lui non ci crede, vedrai cosa gli dico io lunedì. Se lo vedo, se occhio che ti sto chiamando i carabinieri, mi. Sì. Te dici che c'è gente con atteggiamento gravemente persecutorio e anche a tratti violenti, pericolosi, che ti perseguitano già da tanto tempo che è già intervenuta anche la polizia, e quindi di mandare subito una pattuglia per prendere la generalità di queste persone, al fine di denuncia e anche per eventuale danneggiamento di cose, ecco, se dovessero avere questa intenzione lì di toccare la roba altrui. A prescindere di chi è il palo e di chi non è il palo, perché i diritti sono ben specificati. Ma io dico, ma se la gente ha questi problemi, non fa prima a chiederti cortesemente, trasmetti che c'è, va in trasmissione, che c'è il tecnico che sta mettendo la vantenne, e punto, e si chiude lì, siete tutti felici. Ma questa gente è proprio che secondo me cerca la rissa, e bisogna capirle queste cose. Stanno cercando la rissa e vogliono soddisfazione in quel senso, un po' come in antichità si usava a fare il duello, capito? Però tu non ti devi far ingannare, tu li puoi fregare a 360 gradi, e allora quando c'hanno una denuncia vedrai che ti bussano alla porta e ti chiedono anche scusa, perché insomma sono cose che le costano molto toccare. Infatti io faccio così, mi chiamo o la questura dei carabinieri, se lui si mette vicino all'antenna lì, solo a mettersi vicino, dico occhio che ti sto chiamando i carabinieri, se lui mi tocca l'antenna è futtido. Tra l'altro questo tetto è anche pericoloso, l'accesso è tranquillo? No, che tranquillo, guarda che quando l'abbiamo piazzata quell'antenna non ci sono salito manco io a piazzarla, io ho montato le antenne, no, con l'amplificatore, e l'ho dato in mano, cavo e tutto, a un inquilino, è un inquilino di quel palazzo che se n'è andato, che me l'ha piazzata sul palo per cortesia, perché io gliel'ho spiegato che c'avevo il tetto malandato e non ci potevo salire. Guarda, è veramente una tristezza, è una tristezza, c'è niente da fare. Oh vabbè, che anch'io sto combattendo con la banoa, c'ho il contattore chiuso e continuano a mandarmi bollette di 100, di 100, 150, tutte presunte già da da qualche anno, non sono più venuti a prendere il coso, e il contattore è pure chiuso. Guarda, è veramente una cosa che è allucinante, è allucinante. Si sentono cose solo di gente che vuole rompere le palle ad altra gente, non tanto perché sia necessario, ma perché c'è una volontà di cercare la rissa, di cercare il confronto anche fisico, se possibile, senza considerare poi che secondo chi trovano fa anche fine male, anzi, ti dico una cosa, la maggior parte delle chiamate proprio fatte sia all'arma sia alla PS sono di questo tenore, che devono intervenire per separare la gente, soprattutto c'è una litigiosità condominiale da paura. Caro Natalino, comunque tu rimani nel tuo, rimani dalla parte sempre della legge senza alzare le mani con nessuno, e vedrai che li metti in fuga questi qua. Infatti se vedo un tecnico che non conosco, gli dico guarda, non salite neanche perché sto chiamando i carabinieri, se tu sali chiamo i carabinieri e ti trovano smontandomi l'antenna. Occhio, già lo sai che c'è il diritto all'antenna, quindi a parte che tu paghi anche un canone, quindi c'hai tutti i diritti, se ci sono impossibilità di mettere antenne sul proprio tetto, chiede il permesso e la metti sul tetto più vicino che c'è, che ti permetta la ricezione. Quindi non è che, cioè, ma sono cose veramente che qua manca il buon senso delle persone, cioè questa volontà vabbè, evidentemente la nostra generazione è fatta in un modo particolare. Cosa vuoi che ti dica, Natalia? Gianfra, mi sono offerto di fargli l'antenna a mie spese, sia a questi che a quello di fondo, tu pensa, al palazzo di fronte non disturbo nessuno. Dimmi tu adesso, mi sono offerto io, mia spese mia, fagli l'antenna a quell'uomo vecchio che disturbo, che io smetto sempre verso quest'ora proprio per, no, per fargli vedere un po' di televisione. Guarda quanto sono delicato io e questi mi trattano in questo modo. A me l'altra volta che mi hanno sequestrato non mi è durito proprio niente di minaggiare nei biliardi Ruvaracchino Gianfra. Solo il rosmetro costava 150 euro, che era un rosmetro d'Aiva, e me l'hanno sequestrato. Vabbè, quello rientra nelle loro funzioni, perché non essendo marchiato c'è, è chiaro che è legale. Non tanto il possesso, ma quanto il fatto che fosse collegata l'antenna. Poi magari andava benissimo, eccetera, eccetera. Su quello non ci piove, però... tutta la roba, soprattutto delle telecomunicazioni, secondo una normativa entrata in vigore da qualche anno, deve essere marchiata CE. E questo perché non è neanche una legge italiana, è una legge all'Iran, noi siamo stati gli ultimi, come al solito, ad applicarla, ma è una legge europea, quindi fosse capitato in Germania, avrebbero fatto lo stesso, ecco. Proprio perché è una normativa comunitaria. Se fosse stato staccato invece, è messo in un angolo sopra mobile eccetera, nessuno ti poteva dire niente, capito? Perché la radio era staccata, l'apparecchio non conforme, perché il termine giusto è non conforme, sarebbe stato comunque staccato un oggetto che era lì, di tua proprietà, basta, si chiudeva lì. Invece siccome tu ce l'avevi attaccato, allora l'hanno dovuto sequestrare. A tal fine invece, per essere più furbo, tu dunque che li chiami, ti metti l'omologato, che so che ce l'ha anche nuovo, il suo microfono originale, e te ne stai tranquillo, dici, volete vedere, li fa come, guardate, è già venuta anche la polizia postale, ha detto che il problema non è mio, ed ci avrei sicuramente anche il verbale di rilascio. E quindi niente, quelli si devono arrendere, e hanno trovato a te che sei una brava persona, secondo chi trovavano di quelli che con gli avvocati ci vanno a braccetto li avrebbe messi a correre, ma di brutto. Ripeto, sicuramente gente con un livello culturale talmente basso che spicciano per terra. Se vengono a farmi gli scandali e minacciarmi, sono venuti, gli ho detto non ci tornate più, perché se no dal giorno non si è visto più nessuno, perché gli ho detto che li denunciavo per stalking, all'ultima che pensa. No, tu li puoi denunciare anche adesso, perché chiamando i carabinieri o la polizia, loro ovviamente fanno il verbale di intervento, e lei dice guardate che se voi mi date copia dell'intervento, siccome questi mi stanno sempre minacciando, buttano giù l'antenna e dicono a tutti che sono un disturbatore, mentre anche la polizia postale dice che è tutto in regola. E questi, neanche io capisco il motivo per cui stanno cercando una scusa per arrivare anche alla RIS. E quindi si configura anche il reato di stalking, perché se ti fanno quei dispetti, a un certo punto qualcuno le parlerà, magari se c'è lì il brigadiere solito di turno, si avvicina e dice ascoltate signori cari, adesso state esagerando, riparatevi quello che vi potete riparare, statevi tranquilli, perché se ritorniamo poi sono guai, così come l'ha detto anche la polizia postale. La polizia postale io l'ho chiamata e gliel'ho detto e loro mi hanno risposto, lì la concessione è pagatela, certo l'ho rifatta nuova perché sono stato un anno senza parlare. Ho pagato la tassa, tutto, c'ho l'apparato omologato, c'è, marcato c'è come avevate detto voi, quindi io volevo sapere come comportare, guardi lei può parlare, è a posto, l'ha detto. Sono loro che prima di intervenire noi gli dica di chiamarsi il tecnico e di mettersi a posto le antenne, perché se interveniamo noi qualcuno deve pagare. Beh, ovvio, non è che questi vanno a giocarsi lì, perché ci sono due imbecilli ignoranti che stanno rompendo lo scatto. sai, tu stai tranquillo e fai quello che devi fare. Se vedi che lunedì viene questo signore, dato che probabilmente non ne avrà colpa, a meno che non sia uno che proprio non c'ha titolo, lei dice, guardi, lei cosa può fare, salire sul tetto, eccetera, eccetera, toccare cosa? Ah, sì, aspetti un attimo che stanno arrivando i carabinieri o la polizia, partendo dalla generalità per una denuncia. E poi glielo dice davanti ai carabinieri che le sta andando a togliere un'antenna. E infatti. Perché loro poi sul verbale metteranno, ma scusi, lei questo incarico l'ha avuto da qualcuno, l'ha mandato qualcuno, chi è il nome di questa persona che ha... perché, guarda, in realtà il baracchino in questa situazione c'entra veramente poco, c'entra invece molto il fatto che a te ti stanno